La foresta e il boscaiolo, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Avendo un boscaiol rotto o perduto il legno che fa manico alla scure, non così presto avrebbe provveduto che la foresta non facesse frattanto un po' di festa. A lei quindi volgendosi umilmente la prega di voler lasciarsi un unico ramo strappare molto dolcemente per poter fare un manico alla scure. Promise pure che sarebbe partito a cercar pane in terre più lontane, lasciando intatte l'alte querce e cheti i venerandi abeti. L'innocente foresta all'uomo indegno guarnì di nuovo il legno il luccicante acciaro, ma il beneficio suo pagò ben caro, perché colui la fronda e la dispoglia non dando ai rami teneri perdono, geme la selva del suo stesso dono. Così fa il mondo e i suoi seguaci fanno, che volgono spesso in danno di quelli che lo fanno il beneficio. Stanco son di parlare, vado via, ma tuttavia qual uomo al mondo c'è che non si duoli vedendo i dolci rami in terra sparsi? E se non piangi, di che pianger suoli? Invano io grido e chiamo alcun che moda, abuso, ingratitudine saranno sempre di moda. Fine della favola, La foresta e il boscaiolo. Questa registrazione è di dominio pubblico.